Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Mani fredde, cuore caldo. Buongiorno intanto da Nicoletta. Voi conoscete questo detto? Bene, un gruppo di psicologi americani dell'Università di Yale del Colorado ha voluto vederci più chiaro ed è arrivato alle conclusioni opposte. Sembra infatti che il cuore caldo, inteso come buona predisposizione d'animo, generosità e ottimismo nei confronti della vita e degli altri, sia tipico di chi ha le mani calde, direi tiepidine, insomma non fredde. Non ci innamoreremmo mai di un termosifone, né usciremmo mai con una stufa, ma forse è giusto sapere che non sarà più possibile, dopo una stretta di mano un po' freddina, rispondere mani fredde e cuore caldo. Secondo una ricerca dell'Università di Yale pubblicata sulla rivista Science, il calore corporeo guida l'interpretazione dei nostri sentimenti nei confronti degli altri, e quindi una mano calda può essere d'aiuto. Per un proverbio che se ne va, un'altra espressione tipica resiste. Quando si dice di una persona distaccata e un po' scostante che è fredda, non si sbaglia. Lo stesso quando si definisce calda una persona cordiale e socievole. A dimostrarlo, gli esperimenti dei ricercatori. Anche un cappuccino o un tè bollente possono fare la differenza. I test hanno dimostrato che è più facile giudicare positivamente al primo sguardo una persona che sorseggia una bevanda calda, rispetto ad una che ne manda giù una con ghiaccio. Da Salute 24. E allora io vi chiedo, quando stringete una mano, vi fate condizionare dalla temperatura o non ci fate neppure caso? 800 24 00 24. E nell'attesa delle vostre telefonate io saluto la dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALT, che come sapete è l'associazione lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari, e responsabile del centro trombosi dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Bentornata. Grazie. La temperatura di mani e di piedi ci dice qualcosa della nostra circolazione? Ci dice qualcosa la temperatura e ci dice qualcosa il colore. Noi non dobbiamo dimenticarci che il nostro corpo esternamente è completamente foderato dalla pelle, e la pelle è uno straordinario organo di scambio. La pelle, quando suda, traspira e quindi cerca di buttare fuori quel caldo che abbiamo all'interno e che potrebbe essere eccessivo quando sale la temperatura. La pelle ci dice in alcuni punti del nostro corpo che c'è un'altra parte del nostro corpo che sta lavorando molto. Facciamo un esempio: quando noi digeriamo, sì, chi sta lavorando molto è il nostro stomaco. Lo stomaco e l'intestino, l'organo che sta lavorando in quel momento, ha bisogno di sangue, perché senza carburante non riesce a lavorare, e questo porta a un meccanismo automatico di privilegio per lo stomaco e per l'intestino, e lo sequestra il sangue, che comunque è di quantità limitata e definita intorno ai 5 litri, e lo sequestra a favore dell'organo che in quel momento sta lavorando. Va dove serve. Sì. Il colore delle nostre mani, soprattutto il colore delle nostre dita, e addirittura il colore del letto ungueale, quindi quella parte della cute che è sotto proprio l'unghia. In sala operatoria, quando si portano i pazienti, si prega di togliere lo smalto. È una cosa che sembra una sciocchezza, sì, invece è molto non importante. Non è una mortificazione. No, non è una cattiveria. Lo si fa per una questione molto semplice, perché quando il contenuto di ossigeno del sangue in generale, o quando la circolazione del sangue non è buona, l'anestesista deve potersene accorgere, e uno dei primi segni è che il letto dell'unghia diventa bluastro. Lo stesso le labbra, per esempio. Si dice: bambine, stai barbellando dal freddo perché sei stato troppo in piscina e hai le labbra blu. Questa è una cosa che tutte le madri conoscono. Ecco, questo è un segno che la quantità di freddo che si è assorbita è eccessiva, e quindi l'organismo sta portando il sangue dove serve, indispensabile, e quindi lo sequestra agli organi meno nobili, che possono essere le mani e i piedi. E poi ci sono le manifestazioni da freddo, per esempio adesso stiamo andando in un'altra stagione, però veramente per oggi mica tanto, è sempre inverno. Sì. Però ci sono le manifestazioni che accadono quando c'è il freddo esterno, ci sono persone che sono particolarmente predisposte ad avere le dita delle mani che diventano prima rossastre e poi bluastre. Questo può capitare in particolare alle persone che fumano, per esempio, perché il fumo contiene nicotina, la nicotina è un vasocostrittore che agisce soprattutto a livello periferico. Quindi calcoliamo che la massa di sangue che abbiamo è fissa, circa quella, 5 litri. Quella che ci è stata data in dotazione. Esatto, il sistema idraulico fatto di arterie, di vene e di capillari è quello che è. Si può dilatare o restringere nei vari distretti secondo il bisogno, ma alla fine il bilancio deve tornare. Quindi privilegio per quegli organi che devono lavorare e sequestro agli organi meno nobili che ne possono fare a meno senza avere delle conseguenze gravi. Ma la temperatura quindi delle nostre estremità ci dà anche qualche informazione sulla nostra circolazione. Lei, dottoressa, ha aggiunto naturalmente anche il colore, quindi guardate anche il colore delle vostre dita, almeno di quelle delle mani, dato che i piedi saranno coperti. Ci sono anche altre situazioni che possono essere già un pochino più avanzate. Adesso qui stiamo parlando di persone generalmente sane, certo, e che quindi hanno questi sintomi. Ci sono altre manifestazioni che invece possono accadere in persone un pochino più avanti negli anni o che per esempio soffrono di diabete e molto spesso hanno i piedi molto freddi e questo dipende non dal meccanismo di regolazione ma proprio dalla rigidità delle arterie che non sono più capaci perché sono diventate dense, sono diventate poco elastiche, che non riescono a portare il sangue in periferia, che è il punto più lontano dal cuore, e quindi non è un meccanismo di privilegio per gli organi nobili ma è un meccanismo che denuncia una deficienza proprio della elasticità delle piccole arterie. Intanto un messaggio da Fabrizio che ci scrive: perché quando dormo ho i piedi freddi? Di solito è una cosa che avvertiamo noi donne, no? Sì, che difatti di solito chiediamo che qualcuno ce le scaldi. Invece Fabrizio... Durante il sonno si riproduce un pochino quella situazione che c'è negli animali per il letargo, in cui si privilegiano alcuni organi che debbono per forza lavorare, quindi il cervello che sta sognando, il cuore che sta lavorando, tutti gli organi interni che stanno lavorando, e quindi probabilmente molte persone hanno mani e piedi freddi, ma soprattutto piedi freddi, primo perché sono i più lontani dal cuore, secondo perché il ritmo del cuore durante la notte rallenta. Quindi calza di lana, se non c'è una fidanzata o una moglie è capace di scaldarle, calza di lana che va bene. Andiamo a Biella, c'è Loredana. Buongiorno Loredana, benvenuta. Buongiorno, telefono appunto per questo argomento che mi tocca da vicino, perché involontariamente quando stringo una mano ho una sensazione che quindi non cambierà mai, poi nell'arco del tempo questa sensazione mi dà il sì o no verso una persona, cioè una predisposizione mia, e mi rendo conto che questo è un mio limite, poi cerco di forzare questa mia forma prima, mentale. Sì, la prima impressione lei quindi la cattura dalla stretta di mano e la poi cattura. Le è difficile cambiarle. Strette di mano più caldine o più freddine? Diciamo che calda la sento immediatamente, mi comunica caldo, quindi ecco. Avvolgente, grazie Loredana, speriamo di incontrarci e di farle buone impressioni. Questa è una domanda complicata, perché in effetti noi siamo governati da un sistema nervoso cosiddetto volontario, che è quello che ci permette di eseguire gli ordini che il nostro cervello manda e la nostra volontà manda, e poi abbiamo un sistema nervoso cosiddetto autonomo, che è quello della reattività a prescindere dal comando che diamo. Io non sono esperta della parte emotiva, ma immagino che ci possa essere, perché non possiamo mai essere presuntuosi, c'è probabilmente anche una dimensione della medicina che forse non possiamo precisare. Può darsi che questa signora abbia istintivamente un senso di repulsione e di difesa nei confronti della persona, e che quindi in qualche maniera le sue parti terminali, quindi le sue dita e le sue mani, si raffreddino, o forse questa signora vuole essere riservata sulla concessione dei suoi sentimenti e quindi magari si... risparmia. Io tornerei sulla temperatura perché se la temperatura ci dice qualche cosa della nostra circolazione, una cosa è certa: alla nostra circolazione il caldo e il freddo piacciono molto, soprattutto se alternati. Non a caso nelle beauty farm e nelle spa vengono proposti percorsi, o meglio passeggiate, tragetti d'acqua calda e fredda, e la sensazione di pesantezza, per chi l'ha provato lo sappiamo bene, svanisce. Le gambe sembrano leggere, apparentemente anche più belle, toniche. Allora, perché non sfruttare lo stesso principio anche a casa e non solo per le gambe? In linea con noi abbiamo il dottor Matteo Cagnoni, medico chirurgo specialista in dermatologia estetica. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, grazie. Il caldo e il freddo, dottor Cagnoni, alternati riattivano, diciamo così, la nostra circolazione, perché, come ci spiega la dottoressa Lidia Rotavender, sono una sorta di massaggio. Dottoressa, è giusto? È una forma di shock e lavora proprio su quell'elasticità delle arterie che dicevamo prima. Prima caldo, poi freddo, le arterie si esercitano. Allora, dottor Cagnoni, io vorrei, se lei è d'accordo, provare ad utilizzare questa sorta di massaggio shock benefico dalla testa ai piedi. Inizierei, se lei mi accompagna, dal nostro cuoio capelluto. Magari anche lui si ripiglia, no? Con il caldo e il freddo. Assolutamente, anzi direi che questo è un antico rimedio, perché in realtà risale a tantissimi secoli fa, era già in uso ed è funzionale, è un ottimo tipo di trattamento per il cuoio capelluto, nel senso che determina un vero e proprio massaggio sia decontratturante ma anche tonificante e riequilibrante per l'attività delle ghiandole sebacee e in ultimo anche come antistress, per cui direi che assolutamente è vantaggioso. Passiamo poi al viso, dopo la detersione. Dopo la detersione diciamo che si può attuare un programma di impacchi freddi o caldi a seconda del tipo di pelle che abbiamo, sì. Ad esempio chi soffre di cuperosi, chi ha la tendenza ad arrossire, ovvero quello che noi chiamiamo eritema pudico, le donne in menopausa che hanno problemi con le modificazioni degli estrogeni che danno questi rossori, questi flushing, o dopo trattamenti estetici, ecco che il freddo rigenera, conserva e mantiene. Mi piace quel conserva, però è vero, dottor Cagnoni. È proprio così. Mentre invece l'impacco caldo, a sua volta, va benissimo nelle pelli miste, seborroiche, perché apre i pori, detossifica. Non parliamo poi nell'uomo, prima della rasatura, che veramente ci apre quei pori, sono nel bagno turco, se proviamo a raderci subito dopo, la pelle rimane morbida come quella di un bambino, per cui proprio ha una sua funzione. Infatti dai barbieri una volta, io ricordo, facevano questi impacchi. Adesso lo fanno ancora, dottor Cagnoni, che se lei sappia, qualcuno sì speriamo. Qualcuno. Sempre meno, ma si trova ancora qualche barbiere di una volta dove fa l'impacco caldo tenuto proprio per qualche minuto per lasciare aprire completamente i pori, e dopo la rasatura invece un bel getto freddo che li chiude subito, onde evitare irritazioni e quant'altro. Dottor Cagnoni, scenderei, arriverei alle gambe, perché il freddo aiuta anche nel trattamento della cellulite o le depositità localizzate. Diciamo che è un metodo molto utilizzato e molto utile a mio avviso. Aiuta perché? Perché ha sempre un effetto molto tonificante, vasocostringe, e questo in definitiva serve a mantenere protette le riserve energetiche del nostro organismo, poi attiva il metabolismo e da ultimo anche nella cellulite, soprattutto cellulite, impedisce la ulteriore produzione di liquidi che sa bene che sono il primo movimento che determina poi le varie fasi dell'aggravamento della malattia, quindi a livello del microcircolo sicuramente ha un effetto benefico. Quindi, dottor Cagnoni, molti esperti suggeriscono alle ragazze, alle donne che praticano magari un po' di attività fisica a casa, di applicare prima dell'allenamento dei siberini, del ghiaccio, raffreddare molto la parte, quindi le cosce, le culotte de cheval, che sono un po' i nostri punti critici, e 10 minuti di raffreddamento e poi scaldarle con l'attività fisica. Sembra che renda di più, lei me lo conferma, così lo passiamo come un suggerimento alle nostre amiche da casa. Raffreddare e poi scaldare. Esatto, facendo un paragone automobilistico automobilistico, diciamo che è un modo per fare entrare il turbo proprio, per cui il metabolismo si attiva enormemente e abbiamo il massimo risultato ottenibile, e quindi un'ottima strategia. Grazie dottor Cagnoni per essere stato con noi, la saluto, la ringrazio e faremo tesoro dei suoi consigli. Grazie, buona giornata. Dottoressa, questa del ghiaccio può essere una cosa interessante da fare anche a casa? È una cosa che ha senso, io mi ricordo, ci sono due cose che ce le possono evocare molto facilmente, gli uomini che temono di perdere i capelli, dico gli uomini perché in genere sono gli uomini che hanno questa paura, utilizzano molto spesso lozioni e sostanze che dovrebbero riattivare la circolazione e infatti non a caso quando hanno finito di cospargersi il massaggio stesso aiuta e si ritrovano col cuoio capelluto molto arrossato. Se poi qualcuna di queste gocce, di queste sostanze scende sul viso, si ritrovano proprio con una strisciata. Questo perché queste sostanze contengono proprio dei principi che provocano vasodilatazione. Dove c'è vasodilatazione c'è apporto di maggiore nutrimento. I classici 100 colpi di spazzola che vengono consigliati da sempre prima di andare a dormire hanno la stessa funzione, quindi riattivare la circolazione vuol dire portare nutrimento. Grazie, buongiorno da Bergamo, benvenuta 800 24 00 24. Buongiorno. Io chiedo una curiosità, perché un'amica recentemente ha fatto uno screening per la figlia che era celiaca, di cui il medico gli ha detto che uno dei sintomi, se non ho capito male, era anche sempre queste mani e questi piedi freddi. È una curiosità perché mia figlia ha 17 anni e sempre mani e piedi freddi. La diretta correlazione, la celiachia è una malattia che sta diventando molto prevalente nella popolazione. Di solito eravamo abituati a pensare che il bambino celiaco fosse quel bambino intollerante al glutine che manifestava la sua intolleranza fin dalla primissima età. Di fatto questa celiachia è legata a una infiammazione dell'intestino che viene aggredito da alcuni anticorpi che sono di solito quei soldatini che noi, il nostro sistema immunitario produce per difenderci dall'attacco dei microbi. Ogni tanto qualcuno di noi produce dei soldatini che sono... diventano un pochino aggressivi nei confronti dell'organismo stesso. Non a caso la diagnosi di celiachia oggi la si fa non soltanto sulla base dei sintomi e del dimagrimento e del malassorbimento, quindi di un intestino che si muove in un modo particolarmente vivace, ma anche sulla base del calo di peso nonostante un'alimentazione adeguata, e andando a cercare questi anticorpi che si chiamano antitransglutaminasi, antiendomisio e antimuscolatura. Certo, anche perché liscia, ci sono delle forme paucisintomatiche. Sì, sono degli anticorpi ma le mani importanti. Ma mani e piedi non sono strumenti di Non penso che ci sia una correlazione così stretta che si possa giustificare. Può darsi invece che lo stesso tipo di meccanismo autoimmune, quindi di autoaggressione, si manifesti anche a livello dei capillari terminali e questo potrebbe essere per esempio la malattia di Raynaud, la malattia di Burger, che molti conoscono perché se ne è sentito parlare spesso, che sono quelle forme di cattiva reattività dei vasi periferici. Ecco, queste possono essere legate a un difetto del tessuto connettivo di sostegno che potrebbe essere anch'esso malato per colpa dello stesso genere di disordine autoimmunitario. 800 24 00 24. Continueremo ad occuparci di circolazione, faremo naturalmente un po' di attività fisica, vedremo, scopriremo che tra la circolazione interna nostra e quella esterna c'è una relazione molto stretta. Essere e benessere. Ti scusi se hai le mani che somigliano ad altro. Scavalli da cavalli, le gambe d'un tratto come i vergi cristalli. Se ci state ascoltando con le gambe accavallate, cambiate posizione perché questo è un consiglio tanto semplice quanto salutare, dedicato a chi passa molte ore come me seduto alla scrivania. Infatti io adesso ho le gambe non accavallate ma attorcigliate. Dottoressa Rotavender, c'è un neologismo, si chiama etrombosi, che sta ad indicare appunto il rischio. Beh, etrombosi è trombosi elettronica legata al computer, di fatto non è colpa del computer ma è legata alla posizione che si tiene per lungo tempo quando si sta a lavorare ad una scrivania. Trombosi è un coagulo di sangue, dobbiamo ricordarlo, perché spero, io spero tanto che tutti sappiano ormai che cos'è la trombosi, perché ne abbiamo parlato tante volte, ma non ci credo, quindi lo ridico. Trombosi è un coagulo di sangue che si forma in un modo, in un momento e in un punto in cui non si sarebbe dovuto formare. Il sangue sarebbe dovuto rimanere fluido, invece è coagulato. Questo trombo può sciogliersi da solo, può estendersi all'interno della vena, se parliamo di trombi che si formano nelle vene, a volte si frammenta e lascia correre nel sangue in direzione cuore dei piccoli frammenti che si chiamano emboli e possono provocare una cosa molto drammatica, che è l'embolia polmonare. Ma in questo momento stiamo parlando di una fase molto precedente, ed è come faccio a salvare la circolazione delle mie gambe, a favorire la circolazione delle mie gambe in modo che il rallentamento del sangue non mi provochi la formazione di un trombo. Di fatto, quando il sangue rallenta tende a coagulare, quando il sangue viene a contatto con l'aria tende a coagulare, quando il sangue scorrendo viene a contatto con la parete di un vaso malato, infiammato, con una placca aterosclerotica se parliamo di arterie, il sangue coagula per guarire. Quindi il sangue coagula per una buona intenzione. Lui fa il suo lavoro. Sì, lui sempre per una buona intenzione. Il problema è che alcuni di noi sono particolarmente predisposti e hanno un sangue non denso, perché lo vediamo denso quando ci fanno il prelievo, ma denso perché contiene uno sbilanciamento fra i fattori che dovrebbero mantenerlo fluido e quelli che invece dovrebbero farlo coagulare. Questa continua lotta che avviene nel nostro sangue in genere vince a favore del paziente, in modo che il paziente abbia sangue fluido dove deve, coaguli dove deve. In alcuni casi purtroppo questo non accade. Ci sono alcune abitudini che noi abbiamo che possono peggiorare o aumentare la probabilità che questo rallentamento provochi un trombo, e questo è proprio la lunga permanenza con le gambe penzoloni, come si sta quando si è alla scrivania. Le ho incrociate? Sì. Mi sono buttata sotto la scrivania perché voglio vedere questi medici che predicano come razzolano. È vero, perché è poi vero. Ci si ricorda, le si disincrociano. Ok, scavallateli anche voi. Scavallate. Quindi scavalliamo le gambe, allora, non dobbiamo portare la biancheria troppo stretta, gli slip. Soprattutto non portiamo indumenti che facciano l'effetto elastico alla caviglia, soprattutto dietro al ginocchio e all'inguine. Cioè i punti di scorrimento del sangue devono essere lasciati liberi e ci sono dei punti dove le nostre vene sono molto superficiali, per esempio dietro al ginocchio, per esempio all'inguine, perché c'è questo poco vale per le donne, vale per gli uomini. Vale per le donne, vale per gli uomini. Le donne hanno una predisposizione un pochino più accentuata perché hanno altre situazioni che si aggiungono, per esempio l'utilizzo degli ormoni, la gravidanza e una certa flaccidità, che è un brutto termine ma è esattamente corrispondente al vero, delle vene, perché hanno una parete meno elastica. Le vene dovrebbero rimanere elastiche e aiutare il ritorno del sangue al cuore, ma contengono anche delle valvole che impediscono al sangue di andare su e giù intanto che che il cuore lo richiama. Quando queste valvole vengono sfiancate, perché la vena viene dilatata come avviene in gravidanza, e molto spesso la gamba è la sinistra, proprio perché per una questione anatomica la vena sinistra, l'iliaca, viene schiacciata dall'arteria, quindi è più delicata. Quindi una donna che in gravidanza ha una gamba che si gonfia più dell'altra, o compare un cordone rosso e dolente lungo il decorso di una vena, o ha una caviglia che si gonfia molto più dell'altra, questa è una donna che non deve sottovalutare questi sintomi, perché la gravidanza di per sé è una situazione in cui c'è un'anomalia nel nostro sangue che tende a coagulare di più. Nello stesso modo ci sono delle situazioni dove la pompa cardiaca, cioè il cuore, non è così efficiente nel richiamare il sangue verso il cuore stesso, e quindi in periferia, lontano dal cuore, ci può essere ristagno, e quando c'è ristagno il liquido contenuto nel sangue, la parte liquida, tende a fuoriuscire e quindi a creare quel gonfiore che di fatto è la presenza di liquido al di fuori del sistema idraulico dovrebbe invece stare. 800 24 00 24, se tenete spesso le gambe accavallate, se portate biancheria intima piuttosto stretto, jeans di quelle che avviluppano, che ci strizzano, o quei bei calzettoni che fanno proprio un bel effetto elastico dietro al ginocchio, sì, che non sono tanto carini. Intanto noi andiamo a Chieti, che c'è Linda, poi Ornello da Torino e Antonino da Messina, ma voglio salutare, che arriva proprio dal Giappone, il nostro professor Stefano Tirelli. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Il professor Tirelli ci suggerirà, fresco fresco dal Giappone, quali sono anche delle tecniche, delle posizioni, degli esercizi che possono aiutare la nostra circolazione a fare il suo lavoro. Possiamo chiedergli com'è andata durante il viaggio di ritorno dal Giappone con le come sue gambe. Com'è andata con le gambe? Come si sono comportate le sue gambe? Molto bene, ho fatto della ottima ginnastica medica antica giapponese, di cui poi dopo vi racconterò. Intanto sentiamo se i nostri ascoltatori, oltre che a qualche domanda alla dottoressa Lidia Rottavendere, hanno bisogno di un consiglio del nostro professor Tirelli. Andiamo a Linda, che ci chiama da Chieti. Buongiorno Linda. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, niente, io volevo dire che ho sempre le mani calde, sì. per natura, diciamo, ce l'ho sempre così. Quando do la mano a qualcuno mi dice, mani calde e cuore freddo. E invece lei dirà, no, guardi, si sbaglia, perché ho sentito a Essere Benessere che degli psicologi americani hanno provato il contrario. Io sono piaccio. Linda, venga la domanda. Scusi. Io ho sempre risposto che se il motore è freddo, chi me le riscalda le mani? Cioè il motore è il cuore. Certo. Io volevo sapere, la domanda è questa per cortesia. Ecco, io quando mi emoziono intanto ho freddo. E il percorso KNAP, io lo chiamo così, sì. Che si pratica nelle beauty farm, nelle spa, quindi l'alternanza di caldo e freddo. Lei l'ha provato? Bene, sì. O male? Perché è proprio acqua gelata gelata e poi calda calda. Sì, che sembra molto calda perché veniamo dall'acqua gelata. Dottoressa, che fa bene, lei se ne accorgerà, perché quando poi esce dal percorso si accorgerà che è come se avesse la pelle tutta piena di spilli. E questo è proprio la sensazione di benessere per la quale noi affrontiamo il sacrificio di buttarci nell'acqua ghiacciata, che non è divertente. Però una volta fatto, dentro e fuori, questa sensazione di spilli sulla pelle e il rossore che compare sulla pelle indicano proprio che è stato efficace, perché c'è stata una vasodilatazione periferica, sì, e quindi poi un maggiore apporto di ossigeno ai tessuti. Professor Tirelli, sì. A parte l'alternanza caldo e freddo, c'è una tecnica, un movimento, una disciplina che insegna, che produce un po' lo stesso effetto del caldo freddo, ma a secco direi? Sì, diciamo che tutte le antiche ginnastiche mediche di cui parlavo prima, appunto, di cui accennavo prima, cinesi, indiane, giapponesi, tendono proprio ad attivare quell'effetto pompa a livello sanguineo che determina una irrorazione periferica ottimale. Per esempio il Tai Chi è un'ottima disciplina nella quale la mobilità articolare associata a delle forme di respirazione profonde aumenta moltissimo proprio la circolazione periferica, così come per esempio le tecniche yoga. In effetti, prima dicendo che tornando dal Giappone, quindi dopo parecchie ore di volo, mi è capitato ovviamente di dovermi muovere un po', quindi facendo degli esercizi molto, molto semplici, dai più classici, quali per esempio la mobilità articolare delle caviglie delle ginocchia, cosa che si può fare molto tranquillamente, perché è come immaginare il proprio piede che fa dei numeri, per esempio col proprio piede immaginare di fare il numero 1, il numero 2, o piuttosto che una rotazione della stessa articolazione della caviglia in senso orario, in senso antiorario più volte. Al di là e di questo possiamo farlo anche alla scrivania. Intanto certo. Io mi sto allenando, dottoressa, scriviamo i numeri con i piedi. Essere e benessere. Allora, professor Tirelli, noi ci siamo, abbiamo fatto un po' i suoi esercizi, è interessante quello, anche perché è facile e immediato, quello di provare a scrivere con i piedi numeri. Sì, è facile e immediato. Mi sono un po' incartata col 5. È molto più facile l'8, per esempio. Okay. No, diciamo che però oggigiorno, come sappiamo, le conoscenze orientali e occidentali si stanno incontrando, si stanno unendo, per cui un'ottima metodica, che è training, si chiama training energetico, unisce proprio quelle che sono le classiche forme antiche di posizioni di allungamento muscolare proprio per la circolazione sanguigna, come lo yoga, con moderni esercizi di scienze motorie. Un esercizio in particolare molto bello da farsi, sì, è l'esercizio dell'attivazione del canale energetico o meridiano energetico del pericardio. Questo è un esercizio semplice, ci insegna a volerci bene anche, nel senso che la cosa da farsi è abbracciarsi, auto-abbracciarsi, sì, e poi con una bella espirazione profonda aprire, estendere totalmente braccio, l'avambraccio e la mano, sì, e percepire quello che è l'allungamento dei muscoli pettorali, del bicipite, dei muscoli pronospinatori della mano, attivando quello che è il meridiano per eccellenza, che viene detto il rallegratore del cuore. Ma mi piace, questo esercizio mi piace un sacco, lo sto provando, ci autoabbracciamo e poi stendiamo. Sì, ci apriamo col petto come se volessimo collegarci al sole. Oggi è una giornata particolarmente grigia, qui a Milano per esempio, e sarebbe bello invece cercare di autoilluminarcela un pochino con questo esercizio che ci attiva proprio la circolazione energetica, aumentando il flusso energetico del pericardio, detto in medicina cinese il rallegratore del cuore. Allora rallegriamoci e professore venga a trovarci presto. Grazie, buona giornata. Va bene, grazie a voi, buona giornata. Pioverà anche a Torino, Ornelio, buongiorno. Buongiorno, No, a Torino è bello, c'è il sole. No, adesso un po' così, però non piove. Allora, Ornelio. Allora, intanto complimenti per la trasmissione. Volevo sapere, di notte, io faccio moratorio, di notte le mani mi addormentano e poi mi fanno male. Però specialmente verso le 11 di mezzanotte, sì, così. Allora, cosa succede? Può essere una circolazione male o cosa può essere? Se non ho capito male, Ornelio ha detto che fa il muratore. Il muratore è uno di quei mestieri cosiddetti usuranti, molto, molto pesanti. Io penso che il suo problema possa dipendere più che da uno stretto problema di circolo, da un problema di articolazioni, soprattutto della spalla, del collo. Immagino che porti dei pesi, immagino che tenga spesso delle posizioni scomode, in flessione, sollevando pesi. Quindi credo che il suo problema, soprattutto perché è legato ad ambedue le mani, mi fa pensare che non sia tanto un problema di circolo quanto un problema proprio di compressione dei nervi che sono nella spalla, perché può darsi che l'usura del suo lavoro lo porti ad avere una... E come vi anticipavo, stiamo parlando della nostra circolazione interna, ma c'è una stretta relazione tra la circolazione interna e quella esterna. Insomma, anche il traffico e l'inquinamento possono avere effetti sulla circolazione sanguigna. In linea con noi abbiamo il dottor Sergio Arari, direttore dell'unità operativa di pneumologia all'ospedale San Giuseppe di Milano. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno. Che cosa succede, dottore? Ma succede che effettivamente l'inquinamento atmosferico può giocare sfavorevolmente anche sul sangue che circola nelle nostre arterie, nelle nostre vene, perché l'inquinamento può depositarsi come una polvere nei nostri polmoni e entrare nel sangue attraverso i nostri polmoni e poi andare in circolo. Questo da una parte, dall'altra parte, quando arriva nei polmoni può scatenare la liberazione di alcune sostanze che determinano una maggior facilità nella coagulazione. Questo può causare in pratica malattie cardiovascolari come infarti, ictus, trombosi, e quindi anche le malattie cardiovascolari hanno un legame con quello che respiriamo tutti i giorni. Dottore, quindi lei tra l'altro è abituato a rispondere ai suoi pazienti, lo fa anche scrivendo libri, no? È in uscita il Medico in Tasca, tutto ciò che dovete sapere sulla vostra salute in 350 risposte. Alla domanda di un suo paziente, allora dottore, se l'inquinamento pesa sulla salute del mio cuore, cosa posso fare? Lei che cosa suggerirebbe? Purtroppo le uniche cose che si possono fare sono molto un po' scontate e un po' banali, cioè evitare di esporsi, soprattutto durante attività fisiche intense, in mezzo al traffico cittadino o in situazioni di elevato inquinamento. È stato provato che per esempio fare esercizio fisico per chi soffre di malattie coronariche in una zona molto inquinata piuttosto che in una zona invece meno inquinata, come può essere un parco. Uno studio è stato fatto fra Oxford Street, vicino a Piccadilly Circus, e Hyde Park a Londra. Fa la differenza. Fa la differenza, esattamente, però purtroppo sono cose molto semplici. No, no, ma molto semplici che conviene sapere e soprattutto cercare di seguire. Allora, l'aspettiamo per l'uscita del suo prossimo libro, così ce lo mettiamo in tasca, dottor Arari. Lei è un po' grande per essere portato in tasca, però riusciremo a fare questa magia. Grazie, dottor Arari, grazie per essere stato con noi. E alimentazione, attività fisica e movimento sono al centro della prima giornata di cui io voglio parlare, il 18 aprile, la prima giornata alla lotta alla trombosi. È la prima giornata nazionale per la lotta alla trombosi, si terrà il 18 aprile non solo a Milano ma anche a Bologna, a Bari, a Napoli, e speriamo che sia la prima di tante. Speriamo, è stata autorizzata e voluta anche dal Ministero della Salute, quindi speriamo di poterla ripetere ogni terzo mercoledì di ogni mese di aprile di ogni anno. Obiettivo della giornata è sollevare l'attenzione su quei fattori di rischio che, proprio perché sono banali e tutti li conosciamo, continuiamo a sottovalutare e dei quali invece non riusciamo a capire l'importanza. Correggere uno stile di vita sbagliato vale almeno quanto un farmaco. Non dico che un farmaco non deve essere preso, ma prima di arrivare ai farmaci, per quelli che hanno il privilegio di essere ancora sani e per quelli che sono già stati colpiti, comunque è importante modificare lo stile di vita, e spero che saranno in tanti a seguirci. Il sito www.trombosi.org per gli aggiornamenti, così ognuno parteciperà all'evento. Bari, Milano, Bologna e Napoli. Io vi ricordo che domani, proprio iniziando da uno stile di vita, da uno stile alimentare sano, si può assolutamente stare meglio, tornare a stare bene. Vi invito ad andare sul nostro sito, alla pagina di Mangia con me c'è il questionario, se non l'avete ancora compilato fatelo. Domani appuntamento, abbiamo come sempre uno di voi scelto tra 1500 che sarà il nostro ospite, il nostro invitato d'onore e che i nostri medici seguiranno. Ringrazio la dottoressa Lidia Rotavender per essere stata con noi, ringrazio voi che ci avete seguito, Laura Vanossi in redazione, Peter Bescapè in regia alla parte tecnica. Per oggi è tutto, io vi aspetto domani per mangiare con me. Essere e benessere.